nell'incontro di oggi si cercherà di dar conto sinteticamente dell'esperienza del luddismo storico e di due riviste contemporanee che hanno cercato di portare avanti un piano di critica delle tecnologie, Los Amigos de Lud, l'Encyclopédie des Nuisances. Poi contestualmente magari accenniamo all'altro versante, e cioè quella che nella locandina è definita religione industrial capitalista. Riguardo il titolo di questo incontro, forse ci sarebbe da operare una correzione sulla base delle precisazioni poste da Stefano Marchesoni sia nell'incontro con Michael Tossig sia in un incontro precedente sulla guerra, a partire dallo scritto di Benjamin al Planetario, perché effettivamente meglio che critiche della tecnologia sarebbe stato dire critiche al rapporto tra gli uomini e con la natura mediato dalle tecnologie. Io dovrei sviluppare la parte sul luddismo storico, sul generale Ludd. Inizio col dirvi brevissimamente come sono arrivato a interessarmi un po' alla faccenda, perché anch'io come tanti, forse tutti, sono nato e cresciuto dentro una determinata cultura, dentro determinati stilemi e approcci alla vicenda del movimento proletario, e dentro questi approcci posto riservato al luddismo è sempre stato scarso e i giudizi sono sempre stati sostanzialmente negativi. Ma per me sono stati fondamentalmente due gli spunti di approccio. Uno, quello slogan punk che suonava "nel dubbio spacca tutto", che proprio mi ha mosso a vedere un po' diversamente una serie di cose. L'altro spunto d'approccio consiste nel fatto che quel raggruppamento sessantottesco italiano che ai tempi più mi colpì, a cui mi sentivo più vicino, avendone letti i testi e conosciuto alcuni degli esponenti, aveva scelto a suo tempo di chiamarsi Lud. E quindi c'era un motivo di cercare di andare più a fondo nella conoscenza del luddismo. Tra l'altro, nelle testimonianze di due di questi compagni, sia di Pierpaolo Poggio, che oggi dirige la Fondazione Michelette a Brescia, sia di Mario Lippulis, risulta che la scelta di chiamarsi Lud derivava dall'influenza esercitata dal libro di Edward Palmer Thompson, che in italiano fu tradotto nel 68, apparve nel 69, col titolo Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra. Quello che effettivamente è ancora, almeno in italiano, il principale testo attraverso il quale approcciarsi in una maniera più approfondita al luddismo dentro, perché questo è precisamente il titolo originale del libro, dentro il farsi della classe operaia inglese. Il titolo italiano rende male il senso complessivo dell'opera, perché è proprio uno degli assunti fondamentali di questo libro, che comunque Hobsham, in occasione della morte di Thompson nel 93, definì il più importante studio in lingua inglese di storia della classe operaia e il libro che ha più influenzato gli studi successivi. Il titolo italiano appunto rende male perché Thompson cerca di mettere in luce gli elementi attivi, interattivi, il farsi, il disfarsi delle culture, delle pratiche sociali, diversamente da una visione che avrebbe potuto vedere da una parte la borghesia e dall'altra il proletariato come entità già compiute e non invece il prodotto di una relazione sociale, di uno scontro politico-sociale. In questo libro, che uscì nel 63, Thompson avanza una tesi molto secca, precisa, che è questa. Il luddismo fu un movimento semi-insurrezionale che oscillò continuamente alla soglia di più lontani obiettivi politici e rivoluzionari. Quindi qualcosa di molto distante dall'immagine di una reazione istintiva e disperata e sostanzialmente primitiva di alcuni strati del proletariato in divenire investiti dal processo di industrializzazione. Quindi una serie di contenuti politici, ideali forti e un radicamento profondo nelle vicende dei poveri del tempo. In Italia esiste al momento ancora molto poco d'altro, cioè se togliamo alcuni saggi su riviste, soprattutto d'area anarchica, esiste quasi solo un altro libro di Salvadori e Villi che però non si pone allo stesso livello di approfondimento, anche se è comunque utile in quanto innanzitutto dà conto dell'enorme duratura, perché durò più di un secolo, produzione legislativa repressiva nei confronti dell'associazionismo operaio e popolare e infine del luddismo stesso con le famose leggi del 1812. L'altro tema che sviluppa forse anche esageratamente quest'altro testo è quello relativo alla coloritura giacobina dei luddisti francesi, che è una cosa che effettivamente va rimarcata. Forse questi due autori insistono un po' troppo sulla cosa, cioè il fatto che il movimento luddita, che derivava dall'influsso dell'effervescenza prodotti dalla rivoluzione francese in Inghilterra, sarebbe stato in collegamento diretto con le vicende belliche delle guerre napoleoniche, addirittura avrebbe operato per favorire quell'invasione dell'Inghilterra da parte di Napoleone che poi non ci fu. Si è su un piano largamente ipotetico, perché i documenti sono molto scarsi a riguardo, però di sicuro le paure del governo e degli strati elevati inglesi erano molto molto alte. Ecco, prima di accennare, perché non potrà essere che un veloce escursus alla vicenda storica del luddismo e ai suoi tratti salienti, volevo usare proprio le parole dei luddisti. Considerate che fonti dirette sono molto scarse, perché si trattò di un movimento a carattere clandestino, quindi non venivano lasciati testi scritti dopo, e la repressione fu molto dura e la rimozione altrettanto potente, tant'è che la prima raccolta di testimonianze luddiste risale solo al 1878, cioè più di 60 anni dopo i fatti. E quindi tutta la storiografia è fortemente segnata da questa scarsità di fonti, anche se nella cultura popolare inglese, in molti racconti, anche in romanzi e soprattutto nel mondo musicale inglese, le tracce sono consistenti. Ecco, volevo leggervi tre brevi testi, perché danno la misura del contenuto morale del movimento. Innanzitutto un'istruzione su come riconoscersi. Dice: tu porrai la mano destra sopra l'occhio destro. Se ci sarà nel gruppo un altro luddista, egli porterà la mano sinistra sopra l'occhio sinistro. Quindi tu porterai l'indice della mano destra al lato destro della bocca. L'altro porterà il mignolo della mano sinistra al lato sinistro della bocca e dirà: che cosa sei? La risposta sarà: determinato. Egli dirà: a ottenere che cosa? La tua risposta, la libertà. Allora egli converserà con te e ti dirà che cosa sa. Poi c'è un giuramento che si è riusciti a ottenere. Il giuramento luddista suonava così: io, di mia spontanea volontà, dichiaro e giuro solennemente che mai rivelerò ad alcuna persona sotto la volta celeste i nomi dei componenti di questo comitato segreto, le loro azioni, gli incontri, i luoghi di residenza, il loro abbigliamento, l'aspetto, il colorito o qualsiasi altro particolare che possa portare all'identificazione degli stessi, sia per mezzo di una parola o azione o segno, a pena di essere ammazzato dal primo fratello che mi incontrerà, e il mio nome e la mia persona cancellati dalla faccia della terra e mai ricordati se non con disprezzo e con orrore. Inoltre io giuro ora che userò ogni sforzo per punire con la morte ogni traditore che possa comparire tra di noi. In qualsiasi momento e ovunque, fino al limite del creato, lo perseguiterò con inesausta determinazione di vendetta. Dio mi aiuti e mi benedica, sicché io possa mantenere inviolato questo giuramento. Siamo nel pieno della tradizione clandestina seguita alla Rivoluzione Francese. I giuramenti babevisti erano simili, i giuramenti carbonari erano molto simili. Quel periodo che fu definito delle sette, ma che fu anch'esso criticato, secondo me, all'eccesso. E criticato da un punto di vista che non era quello proprio del tempo, ma quello che derivava da un periodo successivo, che sarà quello dello sviluppo delle grandi organizzazioni operaie di massa, del sindacalismo della seconda metà dell'Ottocento, che anch'esso fu un fatto storico indubitabilmente, ma che oggi con molta fatica si potrebbe continuare a considerare come una valida alternativa ai tentativi rivoluzionari precedenti. L'ultimo testo che vi leggo è la traduzione italiana del testo di una canzone della tradizione popolare inglese che è appunto rimasta e che si intitola Il trionfo del generale Lud. E dice: tema pure il colpevole, egli, il generale Lud, non si propone alcuna vendetta sulla vita o sugli averi dell'uomo onesto. La sua collera è interamente riservata ai telai larghi e a coloro che abbassano i vecchi prezzi. Questi strumenti di misfatto furono condannati a morte dall'unanime voto del mestiere, mestiere con la maiuscola, e Lud, che può sfidare ogni opposizione, ne fu reso il grande giustiziere. Può censurare l'irriverenza del grande Lud per le leggi colui che non riflette neppure per un attimo sul fatto che una vile imposizione fu l'unica causa che produsse quei deplorevoli effetti. Fate che i superbi cessino di opprimere gli umili e Lud rinfodererà la spada vittoriosa. Fate che le sue doglianze trovino immediata riparazione e la pace sarà prontamente restaurata. Fate che i saggi e i grandi prestino il loro aiuto e consiglio e non ritirino mai la propria assistenza finché un lavoro a regola d'arte e al prezzo un tempo convenuto sia stabilito dal costume e dalla legge e il mestiere, quando l'ardua contesa sia finita, risolleverà la testa in tutto il suo splendore. Il colting, il cutting e lo scoring più non priveranno del pane gli onesti lavoratori. Solo leggendo questi testi si fatica a tenere ferma la tradizionale idea di un movimento irriflesso, puramente reattivo, di elementi persi, disgregati, perché c'è evidentemente un forte tessuto morale, un'idea ben precisa dei rapporti tra chi sta in alto e chi sta in basso, e soprattutto risalta la centralità del mestiere nei suoi contenuti di saper fare qualità e retribuzione, perché le questioni in ballo erano queste. Quindi, sostanzialmente, quello che esplode intorno ai primi anni del primo decennio dell'Ottocento è innanzitutto un processo che si era accumulato nel secolo precedente. A dimostrazione di ciò basti il fatto che la prima legge che punisce severamente in maniera draconiana la distruzione delle macchine industriali è del 1727, cioè 90 anni prima dello scoppio del luddismo comunemente inteso. Tutto il Settecento inglese è attraversato da una sequela continua di atti di resistenza e rivolta che investono non soltanto la questione del lavoro che sta diventando lavoro di fabbriche, ma tutto lo spettro delle relazioni sociali, il prezzo dei generi alimentari, le possibilità di organizzazione, quello che allora era definita, o meglio sarebbe stata qualificata dagli storici come economia morale o economia del povero. In sostanza, in quei decenni è in atto quel passaggio fondamentale da un sistema di rapporti sociali regolati dalla consuetudine e dalla tradizione, che vuol dire regolati dagli effetti degli scontri sociali precedenti, cioè l'Inghilterra del Settecento è ancora dentro gli effetti delle due rivoluzioni del Seicento, con quei livelli di mediazione stabiliti ad esempio nell'atto del 1631. Da parte degli strati superiori c'è il continuo sforzo di violare e mandare in nulla questo sistema di regolazione per imporre quello che poi diventerà il sistema della laissez-faire, della libera impresa, quella che per noi oggi è una banalità, ma che allora era una stranezza e una bella pretesa di presunzione, cioè l'idea che uno semplicemente perché ha i soldi e mette su un'impresa possa fare sostanzialmente quello che vuole a discapito delle condizioni dei lavoratori, delle tradizioni locali, di tutto quel sistema di rapporti che è stato molto ben descritto anche da Roberto Moro, che stava proprio alla base della società d'Ancien Régime, era veramente una cosa che urtava le pance. La situazione dell'Inghilterra del Settecento è stata descritta come situazione di sudditanza, ma al contrario è una lunga fase di continua tensione, perché prevale ancora l'immagine dell'inglese come uomo libero e non c'è sostanzialmente alcun rapporto di deferenza nei confronti delle classi superiori. Al contrario, per arruolare i marinai, per arruolare i soldati, bisogna formare delle squadracce che fanno dei rastrellamenti nei porti per portare la gente sulle navi. E infatti, da lì a qualche tempo, scoppieranno, alla fine del Settecento, scoppieranno le due grandi rivolte nella marina navale reale inglese. Il mob, la plebe, che chiaramente vive una situazione difficile, però è ancora una presenza attiva nella città, ha i suoi luoghi di riconoscimento e di esplicitazione della sua forza sociale, innanzitutto il mercato. Ecco perché parlare del luddismo non è possibile prescindendo dall'intero arco dei comportamenti sociali popolari del tempo. Tutti avranno letto a scuola la descrizione che Manzoni fa dei moti del pane. Non c'è, credo, niente di più distante dalla realtà storica dei moti per il pane e per i prezzi dei generi alimentari, che al contrario erano sempre degli atti politicamente molto consapevoli. Infatti la violenza in genere era d'ordine simbolico, era un modo per esercitare pressione, erano atti organizzati che vedevano delle figure sociali riconosciute alla testa e facevano parte di quel tipo di approccio che gli storici, almeno quelli più avveduti, hanno poi descritto come contrattazione attraverso la rivolta. Quindi tutt'altro che qualche cosa che si produce per il semplice motivo della rabbia o della necessità. Al contrario, è proprio una costante opposizione, un costante controllo all'autonomia del mercato, che ancora non esiste. In testa alle necessità la necessità che i poveri possano mangiare. I prezzi della farina devono rispondere a questa prima necessità. Se c'è speculazione, i carri che trasportano la farina vengono semplicemente bloccati alle porte della città, sequestrati e ridistribuiti. E questo avviene ovunque, avviene in Inghilterra come avviene in Francia. E tra l'altro in queste azioni le donne sono sempre alla testa. C'è uno studio molto, molto bello di Michel Perrault, l'allieva di Foucault, che ha studiato il Panopticon di Benyon, dedicato proprio alla figura della popolana ribelle, che è alla testa della resistenza su tutti i termini della riproduzione sociale. Si tratti della casa, quindi le pigioni, la sottrazione ai meccanismi della rendita urbana, come del controllo dei prezzi. Tra l'altro, Michel Perrault in questo saggio mette in luce come in Francia i primi atti di resistenza all'organizzazione di fabbrica, ancora prima che alla meccanizzazione del lavoro, risalgono addirittura al 600. Le donne rifiutano di essere sottratte al lavoro domestico, che era organizzato appunto nelle case, con tutto quindi quel sistema di compensazione dei tempi, per essere rinchiuse negli opifici. Questo prima ancora che si ponesse una questione di macchinizzazione del lavoro. Gli atti di resistenza e di sabotaggio coprono l'intero arco dell'organizzazione di fabbriche e delle miniere. Non si tratta solo di distruggere le macchine nocive. Tra l'altro, una delle cose che gli studi più recenti hanno messo in chiaro è che non venivano distrutte indiscriminatamente le nuove macchine, ma venivano distrutte quelle macchine che potevano funzionare solo in un'organizzazione di fabbrica complessa e non invece quelle che potevano servire nel lavoro organizzato a livello domestico, e soprattutto venivano distrutte le macchine di quei padroni che non rispettavano le regole. E come venivano distrutte le macchine? Venivano distrutte le scorte di beni, sia prodotti che ancora da produrre, o nelle miniere venivano sabotati i sistemi di sollevamento dell'acqua, come veniva esercitata una forte pressione su tutte le proprietà padronali. Quindi era un modo di appunto agire un terreno di lotta in maniera decisa. Non era semplicemente la questione della macchina, perché in quanto tale la macchina come fattore di innovazione poteva andare bene, poteva non andare bene. È noto, soprattutto sta risultando da diversi studi recenti, che è molto grosso l'apporto della professionalità artigiana all'invenzione, al miglioramento di certe macchine. Non c'è un rifiuto primitivista, antistorico dell'innovazione in quanto tale. Questo è quanto sostiene l'ideologia industrialista, ma andò diversamente. Erano sempre atti mirati, e nel momento più caldo dell'insurrezione luddista addirittura organizzati in maniera clandestina secondo i parametri che ho detto prima. Ecco, la clandestinità del movimento luddista deriva dal fatto che già alla fine del Settecento viene proibita l'associazione operaia, e soprattutto durante le guerre napoleoniche vengono tartassati tutti i tentativi di organizzazione dal basso, e quindi la scelta della clandestinità è puramente una necessità per potersi trovare. Peraltro questa scelta di clandestinità poteva andare insieme con la raccolta di firme di una grande petizione nazionale contro la nuova legge contro i distruttori di macchine del 1812, quindi non era neanche questa una scelta a prioristica. Situazione politicamente molto difficile di sicuro, ma situazione che ha anche il suo lato positivo, perché proprio in questa maniera finisce con l'essere favorito il rapporto tra questi strati artigiani che magari vivevano in piccole località in campagna con i militanti, con i giacobini perseguitati, con tutti gli arrabbiati del tempo, cioè le difficoltà di rispondere alla repressione, però hanno anche questo lato positivo, che tutti quelli che hanno qualcosa contro sono costretti a mettersi insieme, e da questo, oltre che dalla tradizione, appunto, come dicevo prima, della libertà dell'uomo inglese, deriva lo spessore politico rivoluzionario, il tratto eminentemente francese del luddismo in Inghilterra. Quindi uomini del loro tempo e addirittura dentro il dibattito politico contemporaneo. Tra l'altro si ricorda quasi solo il nome di Ned Ludd, ma non era l'unico. Altri nomi che venivano usati per firmare appelli, minacce, rivendicazioni, eccetera, erano tipo Mr. Pistol, Peter Plush, General Justice e Thomas Paine, l'autore di del principale testo liberale avanzato, libertario della tradizione politica anglo-americana, e Truman, Eliza Ludd, No King e King Ludd. Quindi una bella pletora di nomi. È impossibile sapere, dire oggi quanti fossero i luddisti. Certo è che per dar loro la caccia, questo è noto, la corona britannica dovette impegnare chi dice 30.000, chi dice 40.000 soldati, un corpo di entità molto vicina al corpo di spedizione inviato sul continente per combattere le guerre contro Napoleone. Quindi una cosa molto, molto grosso, con tutta una serie di problematiche, quali il fatto che molto spesso i giovani soldati tendevano a far comunella con i luddisti, la necessità di usare truppe provenienti da altre regioni e così via. Tant'è che alla fine la situazione fu risolta solo grazie all'uso, anzi ci fu un ripetuto uso di spie, e dentro la sospensione delle garanzie costituzionali il sistema postale era controllato direttamente dal Ministero degli Interni. Non c'era, ecco, le problematiche delle attuali sono attuali, ma hanno dei precedenti illustri. Peraltro, quando c'è una situazione di tensione sociale o di guerra, l'habeas corpus e la garanzia della privatezza della corrispondenza, ciao. E allora fu già così, ma neanche le spie bastarono, finché ci furono dei pentiti e fu imbastito quel grosso processo che terminò con delle condanne a morte, dopo le quali il movimento luddista sostanzialmente si rinabissa. Riemergerà una decina d'anni dopo e alimenterà quel tentativo successivo che sarà quello del cartismo, cioè gli elementi più radicali del movimento cartista per la rivendicazione di una nuova carta costituzionale, sostanzialmente di un nuovo sistema politico in Inghilterra, quindi l'abolizione innanzitutto delle leggi contro l'associazione, diritto di voto e quant'altro. L'ala più radicale era formata tutta da elementi che avevano fatto il luddismo, e poi avrà una coda in un movimento analogo che coinvolgerà il proletariato agricolo e che è noto come Captain Swing. Captain Swing è un nome un po' fosco, perché vuol dire capitano che pendola, capitano l'impiccato. Che, ecco, la situazione del proletariato agricolo è, se possibile, ancora peggiore del proletariato industriale, perché non ha altro che un destino di emarginazione e disautoramento, neanche la prospettiva delle libertà formali dello scambio capitale lavoro. Quindi l'introduzione delle tre Beatrici sarà fortissimamente osteggiata attraverso una serie infinita di atti di distruzione, che tra l'altro continuerà anche dall'altra sponda dell'oceano, perché ancora la questione delle tre Beatrici sarà al centro dei movimenti del proletariato agricolo nordamericano nei primi anni del Novecento. È una situazione, ripeto, ancora più difficile, ancora più tragica. Resta il fatto comunque che anche queste frazioni emarginate, disperse del proletariato riescono a comunicare, riescono a cogliere l'occasione, non si sa come, ma quando c'è l'opportunità si mettono in movimento, così come riuscivano a tenersi in comunicazione i ribelli delle campagne del Cinquecento, magari attraverso vagabondi, attraverso gente che si spostava. Però è incredibile, noi oggi non saremmo in grado di, senza gli strumenti di comunicazione, sapere che c'è la possibilità, che voleva dire che c'era un certo problema di organizzazione del mercato, un certo problema politico, il momento giusto per fare l'azione. È incredibilmente sempre puntuale, non vuol dire che sia destinata al successo, ma è sempre quando c'è una minima possibilità di successo che questi si mettono in movimento. Chiaramente oggi si può soltanto accennare a una serie di questioni, però penso che si possa almeno intuire perché il luddismo continua a essere un argomento affascinante. Perché è quella situazione di emergenza nel senso di immersione di una prospettiva altra nel momento iniziale dello sviluppo capitalista, cioè nel momento in cui si forma il sistema industriale, subito ne vengono denunciati i tratti inumani rispetto alle condizioni di lavoro, rispetto alla qualità del lavoro, rispetto al senso che del rapporto tra società umana e ambiente. Cioè c'è un tratto fortemente non solo ecologico ma anche estetico nel radicalismo inglese di quel periodo, che si trova sia nei lavori letterari che nelle immagini di William Blake, come si ritrova in Coleridge, come si ritroverà poi in Shelley e così via. Ecco, non c'erano rappresentanze politiche, c'erano magari singoli esponenti degli strati colti che fiancheggiavano, partecipavano. Il più famoso forse è Byron, no? Che alla Camera dei Lord fa un intervento durissimo a sostegno dei luddisti e contro la legge che era in discussione, proprio la legge che punisce con la pena di morte il sabotaggio delle macchine, che sarebbe un po' come se un senatore oggi si alzasse in piedi e facesse un intervento apologetico delle Brigate Rosse di Azione Rivoluzionaria. Questo è perché si era in una situazione di repressione militare armata e di guerra civile latente. Un po' questo, quello che almeno in prima battuta conviene avere in testa, per poi ovviamente andare ad approfondire, andare a verificare. Gli studi continuano, c'è tutto un filone di ricerca che deriva da Edward Paul Thompson. Sono almeno due gli autori principali. Uno è quel grande storico della tecnologia statunitense Noble, che è stato capace sia di scovare nella tradizione biblica i segni dell'avversione alla natura, del rifiuto della donna e l'idea del dominio sulla natura, sia di partecipare molto positivamente a quell'importante dibattito che fu intitolato A cosa servono i padroni? Proprio un dibattito sulle funzioni l'altro lato della rivoluzione industriale, sia di approcciare criticamente l'introduzione delle macchine automatiche nell'industria americana degli anni 50. Quindi una capacità di approcciarsi all'intera gamma della questione tecnologica. L'altro studioso che continua gli spunti dati da Thompson è Linebaugh, che in Italia è noto soprattutto per il libro I ribelli dell'Atlantico, sui contenuti sociali della pirateria e sulla nave come modello del sistema industriale e su tutti i transiti di idee ribellioni che attraverso i porti uniscono i continenti, ma che ha fatto altri lavori sia proprio sulla legislazione repressiva degli anni di cui stiamo parlando, sia sul luddismo dentro la visione dei commons. Ecco, l'ultimo termine che conviene avere presente è questo dei commons. Purtroppo in Italia questa grande questione è stata un po' striminzita dentro certe categorie politiche che sono evidentemente inadeguate, ma ben altro spessore, perché dire commons vuol dire la parte positiva di quell'economia morale di cui si accennava prima. Ad esempio, Linebaugh ha dedicato uno studio molto importante alla Magna Carta, non quella conosciuta, ma la Magna Carta delle foreste, tutto il sistema di regolazione degli usi sociali e dei poveri, delle ricchezze e dei beni prodotti dalla foresta, dallo stagno, che è una roba che a noi neanche ci viene in mente, ma che stava allora proprio al centro della possibilità di vivere, perché di vivere e di avere un rapporto non di sudditanza con le nobiltà e poi col destino di disciplinamento industriale. E poi da ultimo anche sul luddismo, tra l'altro il suo libro è dedicato proprio a Noble. Anche in Francia sono numerosi gli studi che approfondiscono la questione. Insomma, è un campo secondo me estremamente fertile, sia perché è bello sapere che le cose non sono mai così banali come vengono spesso raccontate, ma soprattutto perché si parla dell'oggi, si parla di questioni che stanno al centro di una possibilità di trasformazione rivoluzionaria, di opposizione sui nodi davvero centrali del rapporto sociale dominante, non per l'altro ieri, ma appunto nell'oggi. Poi l'ultimissima cosa: la questione del luddismo ovviamente va vista dentro la questione più generale della resistenza e del sabotaggio, perché questa pratica anch'essa avrà uno sviluppo successivamente, delle modalità anche differenziate, ma che arriveranno fino ai nostri giorni, passando attraverso le stagioni dell'unionismo industriale di fine Ottocento in Inghilterra, la fase del sindacalismo rivoluzionario, la fase americana degli Industrial Workers of the World, la ripresa negli anni 50, no, in assenza di qualsiasi organizzazione di lotta, ma e anche lì si vede come non si tratta mai di risposte convulse, inconsapevoli, al contrario, c'è sempre un condensato di sapere per riuscire a fare le cose, fino ad arrivare alla fase non luddista ma ludica dei primi anni 70, in cui il sabotaggio era innanzitutto, oltre che un modo di resistenza, un modo di giocare con le macchine del padrone. Quindi le descrizioni rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la nuova fabbrica pacificata della General Motors a Lordstown sono estremamente divertenti, perché immaginarsi la gara del salto del pistone, insomma, oppure i combattimenti con gli idranti, oppure a chi fa la montagna più grossa di motori smontati, insomma, son cose che danno una certa soddisfazione anche solo a leggere. Immagino però non solo il divertimento, ma anche la difficoltà, diciamo, il sapere che serve per, ecco, lo stesso sapere che serve per presentarsi a mezzanotte con le torce fuori dalla casa del padrone. Alcuni battono sulla porta, altri entrano nella rimessa, tirano fuori tutto, gli danno fuoco, altri distruggono le macchine. Spero che questa conoscenza ti sia utile. In aggiunta a quanto già detto, che secondo me per capire bene quel periodo bisogna ricordare che la prima applicazione del vapore non è al telaio, non al telaio meccanico, ma, come hai anche citato tu, alle macchine di pompaggio nelle miniere. Quell'evento lì è fondamentale, perché è quello che permette all'industria di slegarsi dal moto della natura, dall'acqua sostanzialmente. Fino ad allora le manifatture si basavano sui corsi d'acqua e proprio si collocavano in prossimità dei corsi d'acqua, solo che questi corsi erano irregolari, non fornivano la forza motrice sufficiente, o comunque non era costante questa forza. Il problema dell'irregolarità è alla base di quel periodo. Cioè, il problema dell'industriale di allora era proprio quello di eliminare queste irregolarità, riuscire attraverso queste macchine di pompaggio a raggiungere le riserve di carbone che stavano in profondità, che fino ad allora non erano raggiungibili, ha permesso agli industriali di avere un combustibile accumulabile, spostabile, che dava una forza motrice alle fabbriche costante nel tempo, quindi sulle 24 ore, indipendente dalle stagioni di secca, di mancanza d'acqua e così via. Quindi il carbone diventa in quel momento veramente una forza, una leva fortissima per l'industrializzazione. Rimaneva un'altra forza che era la base delle manifatture fino ad allora, che era quella umana, del lavoro umano, solo che anch'esso era profondamente irregolare, perché, come dicevi anche prima, non è che le plebi allora fossero così disposte a farsi disciplinare dal lavoro di fabbrica che stava iniziando. E la macchina, l'introduzione delle macchine, in qualche modo era per gli industriali allora un modo per sbarazzarsi delle irregolarità del lavoro umano. E non è una cosa che è avvenuta facilmente, cioè questo adattamento anche della forza del lavoro alla fabbrica è una cosa che è stata in qualche modo devastante. Tu prima citavi l'esercito, sicuramente gli industriali, per spuntare, insomma, per vincere quella battaglia che per noi è un po' la prima, cioè noi pensiamo al luddismo come un po' la prima battaglia rispetto all'introduzione delle macchine. C'è una testimonianza luddista, di una testimonianza dell'epoca, che invece descrive quel momento come l'ultima battaglia, che forse parte ancora da prima del 600. Cioè la prima notizia che abbiamo è quella che è riportata da un monaco olivetano di ritorno da Danzica verso la fine del 500, che dice: 50 anni fa a Danzica è stata inventata una macchina che permette al telaio di tessere molte più pezzi di quanto possa fare normalmente, e con l'uso di meno lavoratori, e può funzionare giorno e notte. Ecco, allora, da quanto riporta questo monaco, il magistrato stesso della città ha vietato l'introduzione di questa macchina, e pare che l'inventore sia stato affogato segretamente. E questo perché, cioè il perché non è stata concessa l'introduzione di questa nuova invenzione, è chiaro e viene riportato lo stesso Monaco, cioè che se no un sacco di povere genti che vivevano di tessitura sarebbero rimaste sul lastrico. Il perché questo l'inventore dovesse essere affogato era il problema della competizione, che è anche questo un elemento chiave per capire poi cosa succede nella fase del luddismo. E cioè, va bene, se noi non introduciamo questa macchina ad Anzica, però qualcuno potrà farlo altrove e questo metterà in difficoltà il nostro di mercato, no? E quindi va bene, non la introduciamo, però questa invenzione deve sparire e con lui il suo inventore. Dalla metà del 500 in poi di situazioni del genere ce ne sono parecchie. Ad Amburgo il magistrato della città fa bruciare una macchina del genere in piazza su pressione dei tessitori, e non riguarda solo il campo tessile, ci sono delle seghe a vento che vengono introdotte in Inghilterra, che vengono date alle fiamme. La meccanizzazione è un qualcosa che parte ben prima del luddismo e ha incontrato una resistenza fortissima. Il momento del luddismo, dicevo, questo luddista lo chiama come l'ultima battaglia, perché è un momento in cui in qualche modo i giochi si fanno forti, si fanno definitivi, e la resistenza all'introduzione di queste macchine si fa più difficile. Stroncare questa resistenza non è stata una cosa facile, e non è successo perché, come ci viene raccontato, da una parte c'era la ragione industriale, il progresso che andava avanti, e dall'altra c'era l'utopia romantica del vivere della natura. Ma è stato possibile perché gli industriali del tempo avevano degli alleati preziosi. Hai citato l'esercito, ma anche la legge. In quel periodo ci sono più di 3.000 atti di enclosure, no? Cioè vengono recintate foreste, pascoli, viene regolamentato l'accesso all'acqua, alla legna, alla raccolta, cioè tutto quello che prima veniva dalla natura, in qualche modo viene sbarrato l'accesso delle classi popolari a queste risorse comuni, e quel momento è fondamentale per, come dire, instradare le classi popolari verso la fabbrica. Uno storico inglese descrive quel momento e questo attacco ai common, come dicevi tu prima, come se fosse stata una picconata alla chiave di volta che reggeva l'arco della vita comunitaria, dei villaggi. Venuta giù quella chiave di volta, crolla tutto il resto. Quindi, insomma, l'esercito, la legge e poi il crocifisso, cioè anche questo aspetto non è da sottovalutare nelle alleanze, negli alleati degli industriali dell'epoca. C'è un capitolo del libro di Thompson che veniva citato prima, che si chiama proprio Il potere trasformativo della croce, a indicare proprio il ruolo della chiesa, dei pastori, delle chiese, delle cappelle, delle scuole domenicali, in quell'opera di adattamento della classe popolare al regime di fabbrica. Senza quella presa della religione sul popolo, forse quell'adattamento non sarebbe stato possibile. In qualche modo, diciamo, il ruolo della croce nell'industria è un qualcosa che va molto indietro nel tempo. Una serie di studi più o meno recenti collocano l'inizio dell'industria, cioè il prototipo dell'industria, nel monastero, non solo proprio per come si configurava il monastero, che è molto simile alle manifatture fino al Settecento, cioè un fiume, un corso d'acqua che viene deviato o comunque che entra nel monastero e aziona tutta una serie di macchine ad acqua che aiutano i monaci nel lavoro, ma proprio per il modello organizzativo del monastero stesso, cioè una comunità, un pugno di persone che viene assoggettato ad una regola comune verso uno scopo comune, che nel caso del monastero era lo scopo di servire Dio, di servire la Chiesa, insomma l'attività spirituale. In qualche modo il monastero è un luogo in cui una barriera, una separazione che c'era che si era retta per qualche millennio, che divideva nettamente le attività spirituali da quelle manuali, è un momento in cui è un luogo in cui viene meno quella separazione e il lavoro e attività spirituale si saldano in uno stesso luogo. Ma per riuscire a tenere una comunità che sta dentro, che prega, che lavora, che pulisce, che batte, che coltiva, insomma, per far funzionare tutto questo c'è bisogno di una normatività fortissima, una regola stretta, una disciplina. Quella disciplina è un po' il nucleo di ispirazione fondamentale poi anche del sistema di fabbrica, in qualche modo, e viene individuato un po' come il prototipo di quello che sarà poi il sistema di fabbrica. Ed è anche un luogo dove si elabora non solo a livello materiale quello che sarà poi la fabbrica, ma anche proprio a livello ideologico, di pensiero. L'argomento è davvero vasto, però per citare solo alcuni passaggi chiave, a parte la norma, diciamo, forse più conosciuta dei benedettini, quindi dell'ora et labora, cioè prega e lavora e fallo in silenzio, che è stato sicuramente un momento fondamentale, ma poi anche i cistercensi. Ci sono tutta una serie di termini che fino ad allora erano attribuiti a Dio, ad esempio l'efficacia era... solo il verbo di Dio era efficace, nel senso che è il dire che si compie, nel momento in cui è il verbo che diventa creazione. Tra i cistercensi questo attributo di efficacia invece migra all'attività dell'uomo, alle attività produttive, è l'uomo che deve essere efficace nella sua produzione. C'è tutto un transfert in qualche modo di una serie di precetti, di credenze che erano alla base della religione cristiana, che nell'arco di un millennio, quindi diciamo poco prima dell'anno 1000 fino all'Ottocento, attraverso i monasteri e tutta una speculazione teologica, migra dalla religione alla macchina, all'attività industriale. È come se l'uomo, che fino ad allora faceva parte del creato insieme a tutto il resto, diventasse un collaboratore di Dio, un qualcuno che continua l'opera divina, la creazione, e quindi la produzione non diventa più un'attività di mero sostentamento, ma proprio uno scopo quasi mistico. Ecco, in questo c'è un nucleo, come dire, fondamentale di pensiero che riemerge poi fortemente nel periodo luddista, dove noi oggi ci si sta soffermando, diciamo, sull'aspetto della critica della macchina, ma è anche un momento in cui emerge fortemente una utopia industriale che non è, come dicevo anche prima, regolata semplicemente dalla ragione, ma è un assemblaggio di elementi razionali ed elementi mistici, di spiritualità, di utopici. Adesso non ho sotto mano, ma a leggere alcuni testi di allora, veramente questa cosa è davvero forte. Quando Jure parla del vasto automa, di queste fabbriche come organi semoventi, dove la macchina e l'uomo si saldano tra loro, cioè sono veramente fortemente, hanno una carica utopica, una carica utopica fortissima. Rispetto invece a quanto si diceva prima rispetto al luddismo fuori dall'Inghilterra e a quanto scrive Linebaugh rispetto alla questione atlantica, ci sono una serie di, dato che poi si parlerà degli amici di Lud, Los Amigos di Lud, ci sono una serie di amici di Lud che sono comunque interessanti, che andrebbero forse riscoperti, perché se il fenomeno dell'industrializzazione avviene con un'intensità tremenda in quei decenni che vanno dall'inizio dell'Ottocento soprattutto fino al 1850, insomma sono quel cinquantennio lì, è davvero terribile anche per le classi popolari inglesi, però il fenomeno è già globale, cioè non è che poi da lì e dopo diventerà globale, già allora lo stesso comparto tessile si sta trasformando a livello globale. Il flusso di cotone grezzo che arriva dall'India, che viene dirottato dall'India, quindi che non viene più lavorato in India ma viene fatto portare in Inghilterra, come il cotone che viene raccolto nelle piantagioni del Mississippi, anche quello viene trasportato in Inghilterra. Tutto quel cotone lavorato poi serve a vestire l'esercito inglese, e quindi c'è una filiera che si sta ridefinendo, e le forme di resistenza sono lungo tutta questa filiera. Nello stesso periodo, proprio gli stessi anni dell'esordio dell'uddismo, quindi 1811-1812, c'è una rivolta di schiavi tra le più importanti nel Mississippi. Si raccolgono in 400-500, scendono lungo il Mississippi fino alle porte di New Orleans, verranno poi massacrati, ma nel frattempo, nel viaggio, incendieranno piantagioni, macchine, perché poi anche lì arriva la sgranatrice di cotone, a Trinidad viene introdotta la tritacocchi. Insomma, il problema della meccanizzazione è un problema che è sentito già subito in quegli anni, non solo in Inghilterra. Uno degli episodi forse più interessanti e misconosciuti è quello della tribù dei Creek e di Tecumseh, che esattamente lo stesso anno, nel 1811, pronuncia un discorso di fronte al governatore dell'Indiana, che è molto simile alle cose che dice, ad esempio, si ritrova in alcuni scritti dei luddisti, ma anche in Regina Mab di Percy Shelley, quando dice tutto in vendita. Ecco, dice una cosa simile, dice: ma perché non vendere anche l'acqua, il mare, i pesci, dato che già vendere il paese, vendere la terra, se tutto in vendita. Questa tribù si dividerà di fronte alla meccanizzazione del lavoro e si dividerà tra conciliatori, cioè tra chi accetta l'introduzione del telaio meccanico all'interno della tribù, cosa che chiaramente non esisteva, ma anche l'aratro meccanico, e chi invece rifiuterà questa meccanizzazione e procederà alla distruzione dei telai, degli aratri, al saccheggio dei magazzini. Quindi, insomma, per dire che la storia del luddismo trova poi delle sue corrispondenze anche fin da subito, anche al di là dell'Atlantico, insomma. Spero che questa conoscenza ti sia utile. Dico due cose sulle enciclopedie. Le enciclopedie, non so, sono rimasto un attimo sorpreso di venire officiato di parlare delle enciclopedie, perché insieme ad altri siamo occupati da tempo di tante cose. L'enciclopedia è l'unica che non siamo di fatto riusciti mai a pubblicare, se non per brevi estratti, quindi in qualche modo è stata un fallimento, un'occasione mancata per noi, che pure io continuo a pensare che fosse e sia tuttora un'esperienza particolarmente interessante per una ragione particolare. Cioè, si tratta di un gruppo, probabilmente conoscerete qualche cosa di loro, un gruppo che si agglomera in Francia all'inizio degli anni Ottanta e che raccoglie in buona parte l'eredità della critica radicale francese, in particolare dell'internazionale situazionista, di cui alcuni di loro avevano fatto parte e con cui e con alcuni membri della quale avrebbero poi loro stessi collaborato. Questo gruppo di persone cerca all'inizio degli anni Ottanta di mettere in piedi un laboratorio, un terreno di incontro, di confronto, che ruota intorno a una rivista e una casa editrice. La rivista in particolare, quella i cui numeri vedete lì sopra, assume la forma di una sorta di enciclopedia a fascicoli che parte dalla lettera AA, dalla parola AA, e va avanti in ordine alfabetico, sostanzialmente per recensire tutte le nocività del tempo presente, l'enciclopedia de Nuisance, per questo motivo. Per cui ogni parola presa dall'elenco alfabetico di un dizionario enciclopedico serve come pretesto per trattare un argomento della società contemporanea, il che da un lato nel discorso generale implica che tutto quello che viene letto sulla base delle chiavi interpretative del nostro mondo si risolve di fatto in una nocività. La cosa interessante, secondo me, soprattutto per noi, di questo tipo di esperienza, di questo esperimento, è che riempie un periodo in cui il dibattito, la critica radicale in Italia era ridotta all'osso, se non del tutto scomparsa. Beh, parliamo dell'inizio degli anni Ottanta, il primo numero, il primo fascicolo mi pare sia dell'84, quindi il periodo in cui i compagni erano in galera o all'estero, l'edonismo reganiano imperava ovunque, grande voglia di fare della ricerca in questo senso e neanche grandi mezzi c'erano. Di fatto, quando si è cercato di riallacciare le file di un certo discorso, l'evoluzione di quegli anni veniva a mancare. Per riallinearmi un po' più però al tema dell'incontro, l'aspetto della tecnologia nel discorso che loro fanno attraverso lo sviluppo della rivista è visto essenzialmente con quel taglio che dicevo io prima, cioè diciamo che l'evoluzione della tecnologia viene seguita passo passo come uno dei momenti, sicuramente uno dei momenti fondamentali attraverso cui andare a analizzare, focalizzare, mettere in luce gli aspetti dello sviluppo, del controllo, del potere, della produzione, cioè di come si andava evolvendo di fatto la crescente totalizzarizzazione del controllo sulle persone. Dopo l'assalto degli anni 60-70 e dopo il tentativo di scontro, come si sa, ahimè fallito, stava riprendendo del tutto il controllo della situazione e soprattutto quello che indubbiamente veniva fatto a tambur battente in quel periodo era di acquisire un controllo tale in modo che future messe in discussione non ci fossero, ce ne fossero sempre di meno. Ecco, come dicevo, riassumo moltissimo perché poi si tratta di un'esperienza molto vasta, molto articolata e soprattutto, secondo me, molto interessante nel momento in cui si va a vederne i singoli specifici passaggi, le analisi che vanno a fondo delle questioni, cioè non è una cosa facilmente e fruibilmente sintetizzabile. Quello che però secondo me sicuramente è interessante è che da un lato in questo discorso si è cercato di mettere in luce come lo sviluppo delle tecnologie che man mano si andavano a ulteriormente accrescere in neotecnologie, poi vedremo dove sta questa distinzione, era di pari passo lo sviluppo del controllo non solo più dei mezzi di produzione, ma di tutto il quotidiano e anche in qualche modo non solo dell'informazione, ma addirittura dei processi di pensiero. Si trattava di cose che in realtà, secondo me, già Debord con la Società dello Spettacolo aveva messo in luce abbastanza bene quando era ancora i blocchi di partenza e che poi avrebbe ripreso e completato con i commentari. Però questo punto di vista analitico, cioè questa analisi partendo dal rovescio, cioè partendo fondamentalmente dal singolo aspetto, dall'episodio, per andare a disvelare i meccanismi che vi erano sottesi o le falsità o le mistificazioni a cui essi rispondevano, diventa interessante proprio per quel motivo, perché si può seguire un processo in fieri che peraltro nel contempo era accompagnato da un'attività editoriale che invece presentava dei saggi monografici dove alcuni argomenti venivano, anche se con tagli diverso, venivano affrontati in specifico. Lì ce ne sono alcuni, ce n'è uno sull'agricoltura geneticamente modificata, un altro sulla sindrome dell'olio tossico, che peraltro credo che abbiate pubblicato voi, l'abisso si ripopola. Ecco, questo laboratorio questa ricerca sviluppata ha consentito nel tempo di andare a precisare le categorie che sono le categorie che forse forse adesso sono quelle che possono di più avere una diretta praticabilità e fruibilità. E a me, devo dire, interesserebbe più soffermarmi su questi aspetti, anche perché sono delle cose che in qualche modo ci sono sempre state nel discorso e nel percorso della critica radicale, dell'approccio comunque rivoluzionario o quantomeno rivoltoso rispetto a certe cose, però spesso hanno lasciato alle spalle una serie di equivoci che a quello che ho visto succedere a Torino ancora qualche settimana fa direi che sono equivoci tuttora irrisolti. A Torino c'è stata una discussione perché un collettivo è intervenuto di traverso a un'iniziativa sostanzialmente e ha detto: ma la tecnologia però non può essere buttata via tutta, perché per esempio mi consente la libertà di cambiare sesso. La stringo molto, che però veramente si rischia con queste posizioni così tranchant e di semplificazione di perdere di vista il senso fondamentale, anche perché poi c'è stata questa una bella deriva semantica. Prima di tutto parto dal fondo perché il processo di sviluppo del laboratorio che ho messo sulle enciclopedie, attraverso tutti questi passaggi che, come dico, è inutile ripercorrere in dettaglio, secondo me trova uno sbocco decisamente felice in un libro che viene scritto da una persona del loro giro, che è Jean-Marc Mandosio, è pubblicato dalle enciclopedie direi nel 2000, che si intitola D'après l'effondrement, che diventa poi anche il punto di partenza di Los Amigos de Lud e che sintetizza e in qualche modo riordina tutti gli argomenti e tutti i passaggi che c'erano stati all'interno di questo percorso. Ecco, lui parte da una riflessione, una distinzione netta fra tecnologie tecniche, tecnologie e neotecnologie. Intanto ponendo bene la differenza fra tecnica e tecnologia, che è un passaggio che peraltro viene trattato in diversi fascicoli delle enciclopedie, sempre sulla base di fatti, di esperienze concrete, però il lavoro che era stato fatto già agli inizi su Chernobyl e su quello che era avvenuto aveva dato pretesto per aprire una riflessione sull'argomento. C'è anche un'altra voce in particolare, perché se poi lo vedete sono fatte proprio come delle voci di un'enciclopedia, quindi con il termine iniziale, un breve occhiello di presentazione che parla del significato del termine, a cui poi viene agganciato un breve saggio di riflessione. Una voce a Borner, delimitare, si sofferma su quello di cui parlavamo prima, e cioè sul legame dell'agricoltura con lo sviluppo prima delle tecniche e poi della tecnologia, dove per l'appunto viene messo in luce, partendo dalla nascita dell'agricoltura nell'antico Egitto, quando sostanzialmente si inventa la geometria per delimitare, razionalizzare la coltivazione dei campi, da cui, secondo loro, che però si riallanciano a una serie di passaggi e testimonianze storiche, si collega direttamente anche alla nascita del pensiero astratto, che, a cui segue il passaggio poi dello sviluppo della tecnologia, che è inizialmente lo studio e la riflessione sulle tecniche, come dice anche la radice etimologica del termine. Però da scienza che studia l'insieme e i rapporti fra le tecniche, la tecnologia incomincia a diventare da un certo momento in avanti anche l'ideologia delle tecniche, cioè il quadro epistemologico che serve poi a legare le tecniche alle scienze, a vincolarle reciprocamente e soprattutto a fare in modo che di avere il controllo sull'orientamento e quindi di avere il controllo, di nuovo torno lì, semplificando la cosa, sui mezzi di produzione. Tra l'altro, a questo articolo sull'agricoltura Ne segue uno di poco, sempre legato all'antico Egitto, che è Abu Simbel, brevissimo, dove però prendono spunto ancora per alcune riflessioni interessanti sullo smontaggio e rimontaggio del tempio di Abu Simbel per realizzare la diga e su promesse, effetti e conseguenze di quello che un intervento del genere ha prodotto, per il fatto che in questo modo, da un lato, il progetto era stato presentato come trionfo della capacità dell'uomo attraverso i suoi mezzi tecnici di dominare e controllare la natura. In realtà, come ormai è noto, all'epoca lo era un po' meno, ha prodotto delle cose che dal punto di vista della risposta ai bisogni effettivi sono dei veri disastri, perché ha sostanzialmente permesso di controllare le piene del Nilo, che come si sa erano il naturale strumento per irrigare e fertilizzare tutta la piana del Nilo, che senza le piene si è completamente insterilita. Nel frattempo il mare, senza questo apporto di materiali, ha incominciato ad erodere il delta del Nilo medesimo. Quindi dal punto di vista della funzionalità ha fatto una serie di concreti disastri. Ha reso però i necessari una serie di interventi che dal punto di vista economico sono stati estremamente redditizi, perché adesso la Valle del Nilo ha tempestata di fertilizzanti, il delta del Nilo tenuto insieme con operazioni di scavo, di controllo, eccetera. Senza andare ancora oltre nei dettagli, volevo poi arrivare un po' a quello che è stato, in fondo, che secondo me è il punto su cui l'Encyclopédie de Misance, che peraltro si è poi collegata con diversi movimenti anche politici, come l'Organisation Paysanne in Francia, la più radicale, quindi i movimenti che concretamente hanno sviluppato le iniziative di protesta contro l'agricoltura geneticamente modificata, eccetera. Il punto di arrivo però, che è quello che forse troviamo meglio compiutamente descritto nel libro che citavo prima di Mandosio, sia con lo sviluppo e la presa di controllo su tutto il nostro quotidiano, con quelle che vengono chiamate le neotecnologie e che sono di fatto le tecnologie della comunicazione, le tecnologie dei social, le tecnologie di controllo, di diffusione e di informatizzazione dei dati. Ecco, in questo passaggio, riagganciandosi a tutte le critiche precedenti rispetto alle tecnologie, Mandosio individua in questa neotecnologia un salto ulteriore che, come dico, secondo me era già descritto in nuce nella Società dello spettacolo, in particolare nell'ultimo capitolo, quando Debord fa la critica dello strutturalismo e definisce già all'epoca la comunicazione come una serie di erogazione a cascata di ordini imperativi. Ecco, più o meno la frase indicava quello, cioè l'assenza di una comunicazione che desse effettivamente dei contenuti discutibili, condivisibili, opinabili, che fosse invece ridotta a una sequenza di diktat che riproducono l'organizzazione sociale esistente, il sistema esistente. Con la neotecnologia, tutte le tecnologie vengono sussunte nella tecnologia della comunicazione, la quale viene codificata e ridotta a delle sequenze numerarie di fatto, e quindi diventa insieme tecnica della sua comunicazione e anche sua ideologia, che si incontrano e si armonizzano, mentre prima erano rimaste in qualche modo separate e quindi avevano bisogno di un doppio controllo, il che da un lato rende la comunicazione del tutto tautologica e dall'altro penetra e condiziona direttamente tutti gli stessi nostri modelli di vita. Poi lui si diffonde su uno specifico, sulla distinzione fra il vinile e il CD, sulla musica, sul fatto che queste nuove tecniche di nuovo siano estremamente funzionali alle esigenze del mercato, ma invece perdano completamente di vista le esigenze del dare risposta ai nostri bisogni quotidiani, il che peraltro è in qualche modo quello che io avevo individuato all'epoca come il filo conduttore di tutto questo passaggio e in particolare di tutto il lavoro che è stato fatto da questo gruppo ma anche da altri. Loro secondo me l'avevano fatto particolarmente bene in un momento in cui non lo faceva nessun altro, e che però in generale penso che continui ad essere il punto su cui ancora adesso ci troviamo a dover andare a fondo e trarre le debite conseguenze, ed è che alla fin fine questi passaggi ci inducono sempre di più a ritenere che sia tutto finito, che il cerchio si è chiuso e che non poteva che essere così. E non può in altro modo che essere così. Ormai, se ci fate caso, nella comunicazione presente l'idea di una possibile alternativa è assolutamente rimossa. Si parlo ovviamente della cultura della comunicazione ufficiale, si parla al massimo della decrescita felice, del cambiamento nei consumi per fare attenzione sul riscaldamento del clima, eccetera. Però l'unica cosa che è veramente il cuore del problema è l'unica che nessuno ha più voglia di rimettere in discussione. E questo è in buona parte, secondo me, da ricondurre al lavoro e alla chiusura, al perfezionamento che è stato fatto con quella che loro hanno chiamato le tecnologie, possiamo chiamare i social, possiamo chiamare la comunicazione d'oggi, quello che volete, cioè questa tautologia che chiude definitivamente il cerchio e che non lascia più spazio praticamente a nulla, nel senso che noi possiamo dire, fare, raccontare quello che vogliamo. Se io lo racconto a Stefano e a Robertino ci capiamo a meraviglia, ma rimaniamo noi tre. Se io provo a parlarne con qualcun altro, immediatamente quello che dico viene letto sulla base dei codici che ormai sono stati fissati, prestabiliti e sterilizzati, insteriliti da queste forme di comunicazione, quindi o viene ignorata o viene classificata arbitrariamente in una di qualcuna delle forme, delle caselle che sono quelle che in questo momento vengono riconosciute, ma comunque aprire un fronte di autonomia critica vedo che viene progressivamente sempre difficile. Non parliamo poi quando ci si deve confrontare con chi in qualche modo ha visto fin dall'inizio, ha imparato a leggere e scrivere in questo mondo così, dove ogni mezzo espressivo era già stato preventivamente codificato. Io credo che potremmo anche chiuderla, potrei anche fermarmi qua, poi magari dire qualcos'altro, ma preferirei discuterne un po' con voi. Spero che questa conoscenza ti sia utile. Ecco, invece l'esperienza e il progetto dei Los Amigos de Luda non ha avuto niente di fenomenale, nessun riscontro proprio. Non credo che se lo siano considerati pochissimi questo contributo. Che poi a distanza di tantissimi anni mi è stato invece richiesto, ma soprattutto in ambito anarchico ecologista, insomma, perché effettivamente poi c'erano molti contributi che andavano anche in questa direzione. Però sì, noi decidemmo di tradurlo invece perché ci era sembrato un tentativo di non così analitico come certamente quello delle enciclopedie, però forniva un esempio di come provare a in qualche modo ad analizzare, fare una fotografia della situazione in cui si vive. Allora si parlava appunto, come vi ho detto, dei primi anni 2000, però per capire quali erano stati i passaggi che avevano portato a una determinata situazione e quali anche erano stati, diciamo, non soltanto i passaggi dal punto di vista del dominio, ma quello che era stato anche un atteggiamento sbagliato, connivente da parte anche dei presunti oppositori. E a noi era sembrato particolarmente interessante. Ancora oggi quando mi pensavo a quale poteva essere il senso di riparlarne oggi, mi confrontavo con un compagno e si diceva probabilmente anche proprio la struttura di questi bollettini, nei quali intanto erano tre cose. Si chiamava bollettino, quindi questo significava che aveva anche una presunzione di agitazione e comunque di stare sul concreto, sul tentativo di interpretare o di ragionare o di analizzare la realtà. Antiindustriale, perché poi dirò perché, poi negli ultimi due che noi non abbiamo tradotto questa... abbandonano poi questa dicitura, perché altrimenti correva il rischio forse di diventare un po' dogmatica, insomma, comunque di votarsi di senso, e poi si chiamavano Los Amigos de Lud. E il fatto di chiamarsi, di rifarsi al ludismo era soprattutto legato al fatto, non soltanto a queste lotte di cui hanno parlato i due compagni precedentemente contro l'introduzione delle macchine e che avrebbero tolto autonomia e lavoro direttamente, ma proprio riferimento, loro ci avevano visto, ma è stato ampiamente poi anche detto prima, una testimonianza di opposizione al tentativo di distruggere un mondo per quello che lo si conosceva. Ecco, dicevo che appunto questi bollettini sono strutturati in questo modo, hanno un articolo iniziale che potremmo considerare come un approfondito editoriale, nella quale esprimono loro, la redazione, alcune considerazioni sul deterioramento della vita, no? E quindi prendendo da vari spunti, insomma, da varie angolature. Poi ospitano articoli sia di contemporanei che storici, come per esempio appunto nel primo numero che potrebbe forse bastare perché già era molto completo, che ospita appunto un capitolo terzo del libro di Aprile Frondamanda di Mandosio, che dove si affronta il discorso della tecnica che già Filippo ha ben illustrato, nel quale però ecco, è importante sottolineare che il punto sul quale insistono i Los Amigos è proprio quello di non considerare tutto questo, cioè, come una fatalità, no? L'avvento dell'ambiente, cioè della tecnologia come ideologia, come ambiente insuperabile, che qualifica un ambiente considerato insuperabile. Poi ovviamente fanno riferimento alle lotte sia attraverso la recensione di testi o che mettono sempre in fondo al bollettino, quindi le lotte a cui fanno riferimento sono quelle Notav, infatti noi nel bollettino, nel primo numero, abbiamo inserito questa autointervista che loro non avevano messo, che era un'autointervista fatta come contributo in Navarra nel 2002 contro il TAV. E quindi contro le nocività, con opposizione per esempio alla costruzione di una diga, che sono passaggi molto interessanti, però magari se avete voglia li andrete a vedere, una lotta molto molto interessante ai Toiz, quando un intero paese si mette di traverso per evitare che il paese stesso venga demolito per costruire una diga. Altre fanno riferimento insomma ad altre lotte legate appunto al contrasto di nocività o ad altre esperienze come quella, non so, degli orti urbani, insomma ci sono effettivamente riferimenti a lotte che loro considerano più significative o portatrici di un recupero di un'autonomia, di una possibilità di rottura con un mondo che viene invece presentato come insuperabile. Poi ospitano, ecco, un altro aspetto interessante, quello che interventi di quelli che definiscono transfughi, cioè ricercatori, scienziati che magari per un certo periodo avevano lavorato appunto all'interno del sistema, poi se ne erano fatti aspri oppositori o contestatori o critici, come questo fisico Belbeoc che parlerà delle energie alternative. E poi ecco sì, un altro capitolo molto altri capitoli interessanti sono quelli dedicati appunto alle energie, anche alla critica Rifkin e alla ipotesi di una società dell'idrogeno. Insomma, sono tutti spunti in cui loro vanno a puntualizzare come siano tutti tentativi di in qualche modo di intervenire sui difetti di questo mondo, ma non sulle cause e quindi non sono portatori di una messa in discussione alla radice di quali che sono stati i motivi per cui questo sistema interviene in modo così nocivo sulla natura. Altre questioni molto interessanti sono proprio legate alla natura. Un passaggio che mi è sembrato molto stimolante e che mi ha rimandato alla mente anche Simone Weil quando dicono che noi non dobbiamo pensare di non avere un rapporto conflittuale con la natura. Certo che esiste, ma è su questo piano che noi comunque dobbiamo agire nel mondo, cioè insomma avere questo rapporto con la natura dal quale ricavare i beni di sostentamento bla bla bla, o cercare di difenderci dalle catastrofi che la natura può arrecare alla presenza umana su questa terra, e quindi non di salvaguardarla da interventi nocivi, ma di capire e di andare a intervenire appunto sulle cause che portano a questi interventi nocivi sulla natura. Comunque, io volevo cercare di portare proprio in estrema sintesi quelli che sono i loro, diciamo, i loro punti, la loro teoria, perché volevo concludere questo ragionamento che ho introdotto dicendo che la struttura stessa dei bollettini ci potrebbe dare qualche buona idea su come cercare di riprendere un'analisi sulla situazione attuale e magari anche riuscire ad articolarla in un modo così abbastanza completo come fecero loro a loro tempo. Comunque la tesi di fondo è legata al fatto che il capitale per imporsi ha avuto bisogno dell'industria, ma non soltanto dell'industria, ma della sua ideologia, l'industrialismo. In estremissima sintesi, cioè ciò che viene introdotto e a cui ho accennato anche prima nel mondo di produzione, cioè, verrà poi esteso a tutti gli aspetti della vita. Ma perché questo principio, che è quello poi insomma del trarre il maggiore profitto possibile dalla natura e dalle risorse della natura e delle risorse umane, questi principi sono diventati principi fondanti e dominanti anche nelle relazioni umane, cioè ormai nessuno si vergogna più di pensare o di dire che comunque in una relazione, cioè non è disdicevole dire che ci siano all'interno delle relazioni possa esserci l'interesse personale, cosa che io mi ricordo avendo una certa età, che un tempo invece era abbastanza vergognoso dover ammettere che la relazione potesse essere caratterizzata da interessi personali. Però perché questa ideologia dell'industrialismo potesse prendere così piede e successivamente poi in questo momento la tecnologia prende il posto dell'industrialismo come ideologia dominante, ecco, però perché questo potesse imporsi era necessario che, cioè, faceva leva sulla convinzione che dai cambiamenti appunto prodotti nei metodi di produzione dovesse conseguire l'emancipazione dell'uomo dalla miseria e dalla fatica. Tutto questo non credo che sia il risultato al quale ci troviamo davanti, ma come diceva appunto anche Mandosio, invece c'è una sorta di ribaltimento del mito di Prometeo, cioè nel senso che per esempio le tecniche che sono state ideate partendo dalle capacità umane sono diventate qualcosa che si è autonomizzato e rispetto al quale gli uomini ormai non hanno più un grande controllo sulle macchine. Cioè le macchine create apparentemente per farsi risparmiare fatica nel lavoro sono diventate invece un qualcosa che ha preso un abbrivio suo, e l'uomo inizialmente aveva soltanto la funzione anche a livello di catena di montaggio, insomma, di controllarle, fino a che siamo arrivati al punto in cui quasi nessuno di noi sa effettivamente come funziona nessuno degli apparecchi che si porta in tasca, a meno che non sia un ingegnere, un tecnico, e quindi questo spossessamento non abbia partecipato all'host. Va bene, sì. Adesso gli sto dicendo proprio a spunti di discussione, perché se dovessi rendere conto della ricchezza dei contributi presentati in questi 7 bollettini dovremmo veramente stare qui molto, e quindi prendo proprio le cose più salienti, insomma. Un altro aspetto fondamentale sul quale insistono, intanto quello che dicevo prima, no? Sul quale non torno, però, che per rendere possibile quello, il mondo in cui stiamo vivendo, l'uomo ha dovuto essere spossessato di tutto, non soltanto della capacità di capire come funzionano le macchine, ma anche di sapere provvedere a se stesso. Ma un'altra questione sulla quale insistono molto è il fatto che e qui anche qui può venire in mente anche Anders, che tutti gli strumenti forgiati in età moderna sono stati progettati per necessità industriali o tecnologiche, per cui mettevano assolutamente in discussione che la fuoriuscita da questo mondo potesse avvenire attraverso la riappropriazione dei mezzi di produzione, perché non, secondo loro non c'era niente di cui riappropriarsi se non la propria autonomia e poi eventualmente dotarsi dei mezzi e degli strumenti che reputeremo necessari, ma appropriarsi dei mezzi di produzione attuali secondo loro non porterebbe a nulla. Un'altra questione sulla quale hanno insistito moltissimo è il fatto di avere, in ambito proprio di critica marxista, anarchica, o anche i sezionisti hanno avuto la loro ubriacatura per il progresso, è stata questa idea di aderire, di pensare insomma che di aderire all'idea di un progresso come qualche cosa che di apprezzabile e anche forse di ineluttabile. E anche questa adesione, secondo i Los Amigos de Luda, ha contribuito a far sì che l'ideologia dell'industria prima e della tecnologia poi potesse avanzare a velocità, non è stata sufficientemente diciamo contrastata proprio per questo atteggiamento, per una fede nel progresso che probabilmente ha portato, secondo loro, poi magari ne discutiamo insieme, a non essere abbastanza lucidi rispetto a quello che stava succedendo. Penso che anche soltanto così sinteticamente sia abbastanza chiaro qual era il progetto dei Los Amigos e come intendevano criticare, e quello rispetto al quale sono stati sicuramente molto molto deboli, e che quando si trattava di pensare a come poter venire fuori da questa situazione, o comunque a riprendere una capacità o a rivedere un orizzonte di possibilità per rompere questa sorta di incantesimo che questo il capitalismo come un unico mondo possibile, come ci dicevano una volta, o questo senso di impotenza rispetto al poter mettere in discussione un sistema tecnico così complesso e così opprimente, ecco, quando ci si affaccia alla possibilità dei rimedi o di come reagire, la risposta che arriva è quella di cercare semplicemente di recuperare un'autonomia di pensiero e quindi riandare a momenti in cui una capacità di provvedere insomma alle proprie necessità e bisogni poteva essere fatto anche in proprio, e liberare la mente dai condizionamenti e riuscire di nuovo a comprendere quali potrebbero essere effettivamente i nostri desideri o bisogni, cercando di fare un grosso lavoro di decontaminazione. Mamma mia, delle nostre menti. Ecco, un altro aspetto è questo, negli articoli che riguardano la rivoluzione tradita di Amorós e Seidman sulla rivoluzione spagnola, insistono molto su questo, cioè sul fatto di comprendere che se noi stessi non ci rendiamo conto che il virus ha contagiato anche noi, già anche nel Semprun lo diceva, se non partiamo dal fatto di considerare che noi non siamo puri, che anche la nostra analisi o la nostra critica non è incontaminata e che siamo figli di questo sistema e di queste contaminazioni, ecco, se non partiamo anche da questo lavoro di depurazione delle nostre menti, delle nostre facoltà mentali, forse è difficile riprendere una capacità di risposta e di capacità di intervento. Io mi fermo qui. Spero che questa conoscenza ti sia utile e mi auguro che tu la condivida.